Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Io che sono ateo ed è il 25 di dicembre, non me ne può fregare di meno. Ma perché mi devo sentire un miserabile perché a Natale vado in un centro commerciale? Milan, è inutile che cerchi di difendere l'indifendibile. Volevo condividere soprattutto con Veronica un paio di riflessioni. Una era sapere se lei al ristorante ci va il sabato sera o nei giorni festivi, o invece magari predilige il lunedì sera per essere più etica. Veronica, il teatro ti chiama, il teatro ha bisogno di te, ti prego, torna al teatro. Non fate così. D'accordo, caro, così. Farò la mattina la radio e la sera delle lunghe pièce a teatro, dove mi auguro che tu sia tutte le sere in primissima fila. Pagando un autobiglietto, ovviamente. È evidente che ci sarà un prezzo raddoppiato, perché essendo lui che mi avrà sollecitata a tornare sulle scene e costandomi poi poche ore di sonno, sarà dovrà felicissimo pagare di pagare. No, anche perché sarà felicissimo di pagare, visto che ti vuole a teatro. Allora, amici, i funamboli sono tornati. Grazie, buongiorno e ciao a tutti. Non stiamo andando, ma stiamo iniziando. Fino alle 11 siamo in diretta. Però vedi che ancora i messaggi, WhatsApp, niente sulla questione della domenica. Questa questione si è veramente accesa, tutti quanti che ne discutono, chi accusa appunto il Movimento 5 Stelle, Di Maio, di ammiccare all'elettorato di centro, all'elettorato cattolico. Insomma, accusano il Papa di essere grillino adesso. No, però il Papa tu ha detto... dici a me che sono Papa, insomma, ci sono. Io ieri ho scritto: Veronica, sei pronta a fare il Papa? Guarda, il Papa parla come te. Capite? Come te sul lavoro domenicale, vi rendete conto? Capite che scambio di messaggistica segue alla puntata di Funamboli? Perché dopo esserci battibeccati in diretta, noi non ci diamo pace nemmeno successivamente. Quando lui sente che il Papa dice come me, dice: il Papa ha detto come lei, adesso no, glielo dico. Tra l'altro, guarda, ieri mi chiedevi un dato, e visto, perché se volete chiamare su questo tema, potete chiamare anche oggi, visto che il tema è così caldo, manteniamolo caldo, adesso vi diamo i numeri di telefono. Ma ieri mi chiedevi il dato e l'ho già perso, ma io l'avevo trovato su Repubblica. Te lo devo dare. Eccolo io qua. 9 miliardi in più di esatto. Entrate. Lavorare nei festivi vale, per gli esercizi commerciali, 9 miliardi di incassi in più. Non è male, una manovrina. 9 miliardi. Outlet e ipermercati aumentano del 20% le richieste nei giorni feriali. Si vede che la gente proprio vuole così, vuole andare nei giorni feriali. Ama spendere festivi, soldi festivi. In particolar modo nei giorni festivi, c'è cioè, così. Si è inebriati e vogliosi di spendere denaro. Questa società del consumismo. No, più che altro una riflessione può essere quella che una socialità all'interno dei centri commerciali ha anche sostituito altri tipi di socialità, sì. Per cui probabilmente invece di fare altre cose, di mettersi a giocare a tombola per esempio, o di andare... Bello, tombola. Sì, io vado, bello. Sono una tu grande giochi a tombola? Fan. Sì, grandissima fan. No, non ci credo. No, non è vero. Non è vero. Veronica Gentili, invece di andare a socializzare, ma uno non deve socializzare, ma guarda che già ci accaloriamo. Non è che va nel centro commerciale per socializzare, va per comprare. Allora, anche penso. Gli ascoltatori mi hanno mandato innumerevoli messaggi dicendo: se a me il Natale non mi importa niente, voglio andare lì, le persone anziane che magari sono sole, che vogliono andare lì a cercare. Allora, c'è anche l'aspetto del centro commerciale come un luogo aperto, un luogo comunque dove si può trovare altre persone. Ma guarda, io quando ci vado che proprio anche non guardo in faccia nessuno. Vado, entro, compro. Ma perché dovrei aggregarmi come qualcuno? Tu faccia a fare... Come tu vada a fare shopping non è il punto centrale della discussione. Il fatto che si tenga un grosso centro commerciale come quello di cui abbiamo parlato ieri, l'Orio Center aperto, in cui ci sono tutta una serie di attività, c'è gente che vuole fare anche amicizia. Questo spirito. gente, cioè, tu conosci gente che vuole fare amicizia al centro no, commerciale? No, però penso che esistano famiglie, per esempio, che vanno lì e trascorrono il tempo lì, dove appunto ma certo, una perché magari c'è il cinema, una madre va a fare una cosa, mangia, il figlio ne fa un'altra, ci sono esatto, sì, ci sono sì. Appunto, e diventano centri commerciali che, come spazio dove trascorrere il pomeriggio. Esatto, non a caso questo. Ieri si parlava della sostituzione, anche chi difende perorando la causa dell'Orio Center dice un luogo di aggregazione che ha fatto un po', che fa le veci dell'oratorio. Dell'oratorio, questo proprio mio mai, caro. Questo proprio mai. L'oratorio, i miei figli l'oratorio, quando vogliono andare inutile. All'oratorio vanno all'oratorio a giocare a basket o a calcio, a correre al centro commerciale, non so, magari al cinema, ci sono quei centri commerciali attaccati ai cinema. Vabbè, comunque, però come vedete, chiamateci. Guarda questo. Che questa cosa la diceva il presidente del consorzio operatori di Orio Center, che in realtà è una sorta di grande oratorio di paese per perorare la causa che sostieni tu. Quindi fate quindi una anche, ragione. Quindi il, a maggior l'Orio ragione. Center è l'oratorio 2.0. Sì, a maggior ragione gli atei non vanno al centro commerciale. Adesso non ci posso andare più perché è l'ateo che ci ha detto. Questi sono i sillogismi di uno che ha un ciuffo come no, tuo. Adesso non che è l'oratorio, non l'ateo non può più andare. Va bene, ma non parliamo proprio di questo. Se volete parlateci voi di questo tema alle 9.13 minuti. Vogliamo invece parlare di altre tematiche col primo funambolo che ci raggiunge. Half a mile from the county fair. Allora, noi ormai siamo abituati, l'ultimo caso è quello di New York, dove questo attentatore Akhaye Dullah, 27 anni, si è attentato di farsi esplodere, non si è capito se è fallito l'intento. Ormai queste notizie passano, cioè ce lo siamo dimenticati, come se fosse purtroppo, ma qua l'abbiamo detto molte volte, e purtroppo è così, una realtà con cui ogni tanto dobbiamo fare i conti. Qualcuno che si fa saltare in aria, travolge persone, uccide. È come se ormai fosse entrato un po' nell'ordine del giorno delle cose, quindi succede, ogni volta rimaniamo costernati, ma sempre un po' meno. Poi si va avanti, sì, esatto. A meno che non ci siano tantissimi morti, la notizia finisce clamorosamente subito in seconda, terza pagina. C'è un libro che è uscito, si intitola Nella mente di un terrorista. In questo libro Omar Bellicini, che è qui con noi, intervista, dialoga con un psicanalista molto famoso, Luigi Zoia, per cercare di capire, appunto, come si evince dal titolo, che cosa c'è nella mente di un terrorista. Omar Bellicini, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ecco, non è facile sintetizzarlo cosa c'è, perché ne avete scritto un libro, ma se dovessimo cercare di capire davvero che cosa c'è nella mente di questi terroristi che si fanno esplodere o ci travolgono, ci uccidono, che cosa possiamo dire? Ma partiamo sicuramente dal vecchio dibattito su cosa spinge appunto tante persone ad abbracciare una ideologia di morte come quella islamista, e quindi sostanzialmente la vecchia questione se si tratti o meno di uno scontro di civiltà tra Occidente e Oriente, insomma. La nostra risposta è più articolata, probabilmente, che non si tratta esclusivamente di Islam, o quantomeno l'Islam c'entra, ma non in quanto religione, ma piuttosto come ideologia forte da adottare proprio in risposta ad un vuoto, ad una mancanza, insomma, di obiettivi, di significato da dare alla propria vita, e essendo l'unica ideologia, appunto, ripeto, molto forte rimasta in piedi con il crollo del comunismo, del panarabismo, per esempio, allora tanti giovani che cercano di darsi una missione incontrano l'Islam e la sua versione più radicale, la sua versione più spinta e manipolata dalla propaganda politica degli islamisti. Ne fanno un uso, diciamo, distorto per cercare di essere qualcuno. Fate una riflessione interessante anche legata alla giovane età di molti di questi terroristi, proprio appunto relaziona a quello che stavi dicendo adesso, cioè il fatto che siano persone ancora in fase di ricerca identitaria e quindi particolarmente vulnerabili a dei credi che facciano presa. Sì, ne parlavate anche voi, avete fatto un riferimento ad Akhaye Dullah, che è appunto l'ultimo purtroppo di questa tragica serie, un 27enne, dunque un giovane, ma lo si può dire davvero della stragrande maggioranza degli attentatori, insomma, che hanno colpito l'Europa, dai Kouachi agli Abdeslam, perfino agli Tsarnaev dell'attentato di Boston, insomma, ma anche i tanti giovani che nel nord dell'Iraq e in Siria muoiono. Insomma, c'è senza dubbio una questione generazionale, e qui torna davvero il tema del dare un significato alla propria vita, perché chiaramente un giovane è più esposto alla seduzione, ecco, di una missione, ad una dimensione eroica da darsi, rispetto magari a un adulto più integrato. E non di meno c'è una questione che abbiamo affrontato nel libro, che è la questione tecnologica, delle nuove tecnologie. Esatto, su quello però ci arriviamo. Però Bellicini, mi interessava proprio questo punto, cioè di fronte a questo vuoto, di fronte a queste vite a volte prive di significato, uno si dà una missione abbracciando questo islamismo. No, ma volevo radicale. Proprio arrivare a quello. Perché... Ma perché succede appunto proprio o specificamente, questa è l'emergenza maggiore, con il radicalismo islamista e non con altri tipi di ideologie, secondo lei? Ma perché sostanzialmente sono due gli ordini di motivi, molto probabilmente. Il primo, ecco, come dicevo, è che si tratta dell'unica forma, ecco, diciamo così, di adesione o comunque, ecco, di condivisione comunitaria, ecco, potremmo definirla così, rimasta in piedi dopo il crollo del comunismo. Che cosa rimane altro? Cioè, l'umma mondiale c'è ancora, no? Questo... Beh, sì, prima citavate il consumismo, insomma, effettivamente quella è l'unica ideologia forza, per esempio, è rimasta in Occidente in piedi, sana, diciamo, non gode forse di buona salute, ma è Omar, tutto ma quello per, che abbiamo. Per ideologia appunto religiosa intende quella islamica, quindi anche rispetto alle altre religioni che secondo lei sono meno attrattive in termini identitari, cioè sono meno totalizzanti. Esistono delle forme di radicalismo anche in altre religioni, per esempio nell'induismo ci sono purtroppo sono limitate, sono meno visibili, fanno meno danni, ecco, mettiamolo così. Quello senza dubbio. Chiaramente l'islamismo, anche per questioni geopolitiche, in questo momento è più forte, perché esiste uno scontro in atto nei paesi di cultura islamica, per esempio, che è lo scontro sostanzialmente tra il mondo sunnita e il mondo sciita, un mondo e quindi in particolar modo tra l'Arabia Saudita e l'Iran, ed è uno scontro, diciamo, potremmo definirla una guerra civile interna al mondo islamico, che si serve anche di strumenti come il terrorismo, come il finanziamento a gruppuscoli terroristi o anche a scuole coraniche, a moschee in cui viene veicolato un insegnamento oltranzista, un insegnamento estremista, per colpire l'avversario, e paradossalmente l'Europa spesso viene colpita di rimando, cioè come se noi subissimo, diciamo così, le conseguenze negative di uno scontro che non ci riguarda spesso direttamente, però ma ci coinvolge. Senta, ci diceva della questione tecnologica, per concludere, insomma, che è un aspetto fondamentale, cioè l'ISIS, ma non solo l'ISIS, l'estremismo si diffonde facilmente grazie alla tecnologia. Mediante la tecnologia, ma poi oltretutto crea anche un tipo di socialità anomala, molto viziata in appunto questi individui di giovane età di cui parlavamo, cioè un'idea di una socialità che in realtà non corrisponde a una socialità reale. È proprio così, è proprio così. Innanzitutto, questo è il tema della tecnologia, è la risposta all'interrogativo sul perché i giovani. Beh, banalmente perché i giovani sono molto più presenti sui social network, utilizzano molto più spesso rispetto agli adulti questi canali, o almeno in una misura continuativa, e quindi ne vengono più influenzati. E la propaganda di organizzazioni come l'ISIS muove e punta, diciamo, prepotentemente sui canali social, da Telegram a Facebook a Twitter, insomma, e quindi è più facile che un giovane, trovandosi solo nella sua stanza oppure con il suo smartphone in mano, incontri questi messaggi della propaganda più facilmente di un adulto, e se in quella fase della propria vita, diciamo, ha una perdita di riferimenti, beh, è molto d'altro più mondo. Facile che cada, insomma, preda, insomma, di certe sirene, di certi messaggi. Non di meno, come dicevate voi, c'è anche un tema di cambio di percezione portato dalle tecnologie. C'è una ricerca di Harvard molto interessante che dice che l'uso continuativo, appunto, delle tecnologie e l'informarsi solo attraverso la rete o canali di comunicazione, insomma, anche come la televisione, in realtà è tutto, e perdendo i rapporti umani inibisce le facoltà critiche intellettuali. Crea anche una dispercezione molto dell'esterno, no? Perché non c'è più un contatto reale con ciò che accade intorno. Assolutamente sì, e dirò di più, è anche, causa anche un problema di integrazione, soprattutto per i ragazzi di, delle seconde e terze generazioni, figli di islamici immigrati, sì, insomma, che sono qui magari da tanto tempo, ma che non riescono a integrarsi proprio perché continuano a vivere una propria vita parallela, in rete, magari in contatto anche con mondi molto diversi dai loro, quelli che considerano i loro mondi di origine, e perdono un po' il contatto con la loro realtà, con la loro realtà in cui dovrebbero vivere, ma in cui non sono inseriti del tutto. Allora, noi Omar Bellicini la ringraziamo, ovviamente abbiamo dato uno spaccato di quello che poi, se volete, per Giulia Einaudi Editore potete trovare nel libro Nella mente di un terrorista, questa conversazione con lo psicanalista Luigi Zoia. Tra l'altro non abbiamo detto, Omar Bellicini anche ha vissuto anche in Nord Africa, perché è italo-algerino, quindi ha anche una conoscenza proprio diretta per sue radici di alcuni fenomeni che ci riguardano, e la ringraziamo ovviamente. Lo trovate in libreria per 12 euro. E cara Veronica, ovviamente molti chiamano e ci scrivono anche il prezzo, sulla questione della domenica. Ma come sei ferrato? Vabbè, l'ho visto sulla copertina. Però adesso vogliamo introdurre il secondo funambolo per parlare di immigrazione e di migranti, perché non lo so, tutte le volte quando si dice, allora, quando arrivano i migranti, quelli che sono magari in attesa poi della richiesta, se hanno diritto a essere considerati profughi, sì, o c'è chi dice non fanno niente, cioè, allora questa... quando li fanno lavorare o li mettono a lavorare, nel senso a lavorare, non è che a possono proprio attività, lavorare, sì, ma attività per, no, così rubano il posto di lavoro agli c'era italiani. Già, oppure rubano il posto agli italiani, no, mettiamoci d'accordo, nel senso che ovviamente dobbiamo capire qual è il punto. Facciamo un referendum. No, un referendum no, però cosa facciamo? Chiamiamo l'assessore, un assessore al comune di Milano, Pierfrancesco Maiorino, quindi Partito Democratico. Buongiorno assessore Maiorino, assessore alle politiche sociali. Allora, buongiorno. Bisogna mettersi d'accordo su questo punto, perché voi avete creato a Milano questa idea, cioè l'avete chiamata Bella Milano. Qualcuno ha detto è una sorta di servizio di pulizia aggiuntiva rispetto al servizio pulizia dell'AMSA, cioè l'azienda che svolge questo lavoro. Ci sono in alcune squadre anche dei migranti in attesa di sapere se possono essere considerati rifugiati politici o l'asilo, e la fanno questo, cioè puliscono le strade? Due squadre, 4 disoccupati italiani e 4 migranti in attesa di richiesta d'asilo. Ma intanto... No. Questa iniziativa è un'iniziativa che si svolge dopo un anno di altre attività. 500 richiedenti asilo hanno in questi mesi volontariamente, a titolo esclusivamente volontario e quindi dando la loro disponibilità propria, dato una mano alla gestione della pulizia dei parchi, in particolare occupandosi della raccolta delle foglie, che è un'attività che l'azienda AMSA ci ha segnalato come un'attività non coperta dal contratto di servizio. Quindi si tratta di richiedenti asilo che in questo caso hanno partecipato volontariamente alle attività, e noi ne abbiamo incontrati diversi, tra l'altro anche in un'iniziativa nella quale li abbiamo ringraziati per quello che hanno fatto, e questo è un percorso che continuerà. Quindi da una parte c'è questa azione, quindi lo fanno volontariamente, quindi non sono pagati per questo. Non sono pagati, anche perché non si può, non si può, legge, certo, oggi è molto, certo, è molto complicato retribuirli, e poi, ma devo anche dire che c'è stata un'adesione straordinaria da parte loro per dare una mano, se vogliamo, io credo anche interpretando un senso di restituzione in qualche modo di quello che ricevono attraverso le nostre iniziative d'accoglienza, che, come immagino si sappia, sono piuttosto intense a Milano. Ma in termini di inclusione sociale, per esempio, funziona un'attività come questa anche nel coinvolgerli, nel far sì che non siano tutto il tempo senza nulla di concreto da fare? Diciamo che è una delle cose che si fanno, poi ce ne sono tante altre, sono percorsi formativi, tirocini, cioè non siamo più a 4 anni fa, arrivano i barconi e poi c'è solo il tetto sotto cui metterli, cioè ci sono un sacco di realtà, enti locali, non solo il nostro, ma anche associazioni, quant'altro, che danno vita a un sacco di iniziative. Poi certo c'è il problema, io credo che ci sia sempre il problema di evitare che rimangano lì a far niente, per dirla in maniera un po' banale. Questo però, Maiorino, è un problema però dello Stato italiano, che quando si scopre che in altri paesi la richiesta viene evasa, nel senso con un sì o con un no, nel giro di un mese, e da noi ci sono invece procedure che durano 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, perché poi ci sono i ricorsi, i controricorsi, e chiaramente si crea questo limbo in cui la persona rimane chiaro, lì, non può lavorare, certo. Immobile. Non c'è dubbio, c'è questa, però diciamo c'è questo limbo che è anche un limbo molto lungo per colpa delle regole di questo paese, del modo in cui questo paese ha gestito male l'organizzazione dell'accoglienza, in particolare 2-3 anni fa, e ha accumulato, devo dire, tante difficoltà. Ma ci può essere comunque una via di mezzo tra il tenerli a non far niente e coinvolgerli in percorsi formativi, azioni volontarie, cose che si può fare, cose che noi stiamo facendo. Vabbè, ma di cosa accusano? Rubano il posto di lavoro agli italiani? Il volontariato in questo caso. Però se ci sono i disoccupati saranno pagati, quelli invece italiani. Assolutamente sì, infatti ci stavo venendo. Quindi rubano il posto a 4 disoccupati, mettiamola così. In questo caso neanche ai disoccupati, perché noi in questo caso stiamo sperimentando una nuova forma ulteriore, oltre che si aggiunge alle azioni volontarie di cui parlavo prima. Cioè abbiamo creato queste squadrette che saranno 20 nei prossimi mesi, adesso sono partite le prime 2, che tengono insieme disoccupati che recepiscono una borsa lavoro, quindi un contributo mensile di 400-500 euro a seconda delle ore, e poi volontari. I volontari possono essere o profughi o cittadini italiani, per la cura e la pulizia delle zone della città. Anche in questo caso diamo una mano alle persone in difficoltà senza lavoro, e il contributo che ricevono viene restituito in termini di azione di pulizia e di lotta al degrado. Ecco, questo per esempio mi incuriosiva, se c'era necessità di un maggiore intervento di pulizia proprio rispetto a quello che c'è già a Milano, cioè secondo lei era necessario Ma il problema delle foglie qui a Milano adesso a ottobre era un problema serio. Perché anche qui a Roma è tragicamente serio. Lo so, però sì. Diciamo noi qua abbiamo deciso di fare le cose molto su questo piano, di essere molto esigenti con noi stessi. Io credo che il tema del decoro, della pulizia di una città sia davvero un elemento essenziale che la deve caratterizzare. Se riusciamo a rafforzare queste attività coinvolgendo persone senza lavoro, questa cosa è utile 2 volte, anche perché ricevono un contributo. L'importante, semmai, è l'unica questione vera in tutta questa vicenda, è quella a cui accennavate prima, cioè l'importante è che in questo modo non ci si sostituisca mai all'azienda AMSA, che è quella che deve svolgere attività, questo. Che ha dei lavoratori, che ha un contratto di servizio. L'importante è che la cosa grave sarebbe un'altra, se noi prendessimo i volontari questa è una cosa. Quindi se sono solo azioni aggiuntive, io credo che possono essere utili, anzi mi permetto di suggerire altrimenti non l'avreste metropoli. Fatto ci sono zone con mini discariche, con piccoli angoli degradati, e poi in questo modo abbiamo anche delle sentinelle sul territorio che ci possono segnalare problemi sia di degrado che anche problemi sociali, perché noi chiediamo a queste persone che coinvolgiamo di segnalarsi. Cioè, ad esempio c'è un senza tetto in un punto che noi magari non avevamo rintracciato con i nostri servizi. Quindi devo dire che sono un aiuto aggiuntivo, perché mi pare non riesco, è veramente una cosa su cui polemizzare, io credo sia impossibile. Si polemizza su tutto, impossibile non è mai, perché la polemica nasce su qualsiasi cosa. Ma più che altro una polemica che invece è stata funzionale è stata quella sui 500.000 euro che verrebbero spesi per portare il relitto del famoso naufragio a Milano esposto, sì, no? Questa è un'iniziativa che in diverse abbiamo sostenuto. 500.000 euro A parte che a me risulterebbero molti di meno, ma al di là di questo noi non metteremo soldi del comune in questa vicenda, perché diciamo non abbiamo intenzione di impiegarli, perché pensiamo che quei soldi del comune dover fare altro. Io sono convinto, però sono soldi, questa effettivamente è una polemica che c'è, questa non c'entra il comune di Milano, ma questo relitto che verrà portato a Milano per essere esposto al relitto, quello del naufragio famoso con 300 rotti morti, costerà 500.000 euro. Su questo, assessore, molti hanno detto: ma è davvero necessario spendere soldi? Per carità, nel bilancio di uno Stato 500.000 euro sono una briciolina. Più che altro sarebbe un emendamento alla finanziaria, quindi non sarebbero soldi del comune, credo, ma soldi di tutti. Soldi nostri, soldi dei cittadini italiani. Lui rispondeva come comune di Milano. Certo, ma ci si chiede se sia davvero necessario spendere 500.000 euro su questo. Lei dice il comune di Milano non c'entra. Però è una polemica questa che c'è, anche perché ci è costato molto di più recuperarlo dal Mar Mediterraneo, dai fondali, quel relitto, con tutto che è sintomo di una tragedia. L'idea è che se sia una cifra troppo alta, anche per avere uno scopo comunque educativo, ammonito rispetto ai diritti umani. Però, comunque, su questo, assessore, la ringraziamo per essere stato con noi. Per Francesco Maiorino, assessore alle politiche sociali di Milano. Se volete chiamarci, se volete scriverci, non l'abbiamo detto, comunque 800 24 00 24, questo è il numero verde per chiamare, e invece per scriverci mandarci audio 349 238 6666. Pubblicità, poi rientriamo, parliamo un po' di scuola. I funamboli. Yeah, that's right, this cut goes out to all y'all that's been missing us for mad years. One love, yo. Yeah, that's right, he's got game. Mamma mia, guagnù, parai, ti ho rotto le scatole, che io venuto questa mattina, che stai a parlare sempre di questo cacchi, a stai aperto nel coach, a stai chiuso. Ehi, ci è voluto stai aperto, stai aperto e non rompi le scatole. Io 25, esci a Flaspers, e quanto vale per i lavoratori dipendenti che lavorano la domenica e le festività l'incremento sul loro stipendio? Ha ragione la Gentili, sta a casa, ripristiniamo il sabato e la domenica fascista. Sembra un'interrogazione adesso, domani cercheremo di avere il dato di quanto vale per gli stipendi di chi lavora la domenica. Un'interrogazione, prof ascoltatore caro, non lo so, sono impreparato, mi metta una I impreparata. Ti ricordi quando mettevano la I di impreparato? La I era un jolly proprio, certo. La cosa jolly, peggiore, sì, di tutto. Io dopo due impreparati prendevo, credo tre. L'impreparato è oltre il voto, capito? Non voglio neanche valutarti. No, perché c'erano poi due giustifiche. Io avevo due giustifiche a semestre con matematica. Falsificate, no? No, che potevi per due volte giustificare. Cioè ti chiamava, interrogava, Milan! Tu dici, no, non ho studiato, però giustificato. Due volte. Ovviamente no, dopo due io questo bonus non ce l'ho mai avuto. Sì, sì. No, no, attenzione, aspetta, però non era così... Milan, mi giustifico, era chi si giustifica, e tu dicevi io mi giustifico, e c'era professore, ho avuto un problema, oggi non mi chiami, c'era lo il grandissimo professore Antonino Toscano di matematica, liceo Casiraghi a Cisello Balsamo. Non l'hai mai più dimenticato? Ma è un grandissimo di matematica. Chi si giustifica, e tu dici io, perché era terribile interrogare, e lui prendeva le giustifiche. Oggi spiego, non interrogo. Un grandissimo. È evidente, così tu ti eri giocato il tuo bonus senza motivo, e poi con sofferenza dovevi starmi a dire oggi spiegava. Non è giusto. Allora, parliamo un pochino di scuola, perché abbiamo un avvocato con noi, Graziangela Berloco. Graziangela Berloco di Bari. Buongiorno, avvocato Berloco, e grazie di essere qui con noi. Ci sente? Bene. Benissimo. Allora, c'è una sentenza, non è la prima, però è una sentenza che consente a una insegnante che era stata spostata a Forlì come cattedra di rientrare invece dove? In Puglia? In Puglia, Bari, sì. Non è, hai ragione, non è il primo decreto, perché i primi risalgono a settembre 2016, per un caso a cui tengo molto perché è stato particolarmente sofferto, perché è stato presentato anche questo in via cautelare nel dicembre 2016, però in prima battuta è stato rigettato perché il giudice non riteneva che ci fosse il pregiudizio. La signora, che è stata poi costretta, le spiego poi meglio, a trasferirsi a 480 km da casa, testarda, forte delle proprie ragioni, ha deciso di fare reclamo e avrà un bel regalo sotto l'albero quest'anno. Di Natale. Ma sì. Perché? Sì, di Natale. Io non capisco il principio, scusa, allora, ma se un insegnante, no, ma se un insegnante, la buona scuola, dice, se c'è bisogno di un insegnante a Forlì, è un dipendente pubblico, no? Se un carabiniere, c'è bisogno di un carabiniere a Lecce, lo manda a Lecce, no? E se non dipendente allora, pubblico. Allora, la buona scuola ha permesso ai docenti, che sono tutti vincitori di concorso, parliamo di persone che hanno alle spalle 10-15 anni di precariato, ha permesso la stabilizzazione, dicendo ok, io permetto di partecipare a un grosso piano di stabilizzazione, e gli insegnanti hanno presentato domanda. Che succede? Che nella presentazione delle domande l'insegnante sceglie il luogo in cui preferirebbe insegnare. Nel caso di questi, tendenzialmente ricorrente, immagino sarà in linea d'aria abbastanza vicino a dove vive, a dove ha famiglia. Però c'è allora bisogno di coprire le cattedre. Le spiego. Allora, che succede? Che questa insegnante è stata trasferita a 500 km da casa in maniera illegittima, perché c'erano insegnanti con un punteggio più basso al suo che sono stati inseriti in scuole sotto casa, mentre lei, che aveva diritto a stare praticamente nella propria provincia, è stata mandata a 500 km. Ma infatti questo il tribunale in base a cosa è accaduto? Questo in base a cosa è accaduto? Cioè non c'è stato un criterio il punteggio, di... Cioè, qui hanno sbagliato, c'è una graduatoria dove praticamente ci sono i punteggi di merito, e purtroppo il famoso algoritmo nel sistema della buona scuola ha fallito, e quindi trasferito in maniera anche a volte d'ufficio arbitrariamente insegnanti che avevano un punteggio molto alto con figli minori, quindi avevano tutte le carte in regola per insegnare nella propria provincia, ma sono state mandate. Ma infatti lei molti li aiuta, in questo caso ancora il tribunale le ha dato ragione a lei, a questa signora che lei ha assistito, e quindi dal punto di vista della legge non voglio dire però il principio lei lo capisce che voglio dire anche gli insegnanti possono essere spostati per coprire le cattedre nel resto d'Italia. Ascolti, io le dico di più, il MIUR ha cercato di difendere come poteva l'algoritmo, arrivando sino a sostenere questo: ok, gli insegnanti hanno fatto la domanda di mobilità, erano consapevoli che potevano essere mandati anche fuori regione, certo. Il rischio c'era, ma è agevole replicare, cioè un conto essere allontanato in base a legittimi provvedimenti, certo. Un conto no. Quindi però... il danno qui non è tanto qui per permessa patrimoniale, anche se voi sapete che lo stipendio di un insegnante è 1500 euro. Mi prendo una casa in fitto, devo mangiare, devo spostarmi, per tre quarti dello stipendio se ne vanno. Ma il però danno, mi scusi, avvocato, qui nello specifico lei quindi non discute la buona scuola in sé, quindi l'idea dei trasferimenti, ma il fatto che questo algoritmo spesso si risulti fallace anche a quello che dovrebbe essere l'intento della buona scuola. Se questo io so il mio punteggio mi dice io devo essere trasferita a Gorizia, io non ho diritto di replica, vado a Gorizia. Certo. Però se io so col mio punteggio che ho diritto a stare sotto casa, perché devo andare a 500 km da casa? Su queste basi la sentenza vi dà ragione. Ad agosto ha comunicazione a mezzo mail che deve essere trasferita in maniera definitiva a 500 km da casa, a famiglia, a due minori. Lì Dall'oggi in due settimane deve organizzare e stravolgere la sua vita. Ma infatti, ma lei non deve convincere me, lei ha convinto il giudice, quindi voglio dire, una volta che ha convinto il giudice e gli ha dato ragione, non è che deve convincere me. No. Non è una corte d'appello. Tanto questa, convincere te è impossibile, no. Quindi avvocato, è più semplice col giudice, meno male. Non è né l'appello né la Cassazione, cioè, per me ha ragione, insomma, no, c'ha incuriosito. No, ma tra l'altro è un altro il punto, non è il punto della buona scuola, è un punto diverso, c'è un algoritmo che sbaglia, che è un'altra faccenda. Sì. Ma infatti questo è contrastato. Noi la ringraziamo, avvocato Berloco. Ce la facciamo un'ascoltatrice velocissima prima del traffico. Aurora, buongiorno. Da Roma, buongiorno. Da Roma. Senta, Aurora. Telefono da un quartiere che in questo momento è sotto il mirino, quindi devo non aggiungo altro. Ci dica. Ostia. Ostia. Allora, a un certo momento abbiamo visto apparire sui marciapiedi delle persone di colore che spazzavano. E la cittadinanza li ha guardati in modo molto positivo, diciamo, davano il loro obolo e ringraziavano sentitamente, anche se con un occhio più attento abbiamo visto che ci avevano tanto di cartellino scritto bene in italiano, ramazze e quant'altro, quindi erano un po' troppo organizzati. E dopo un po' abbiamo sentito dire, e non era una voce a questo punto perché poi sono spariti, che dietro c'era un racket. Quindi è una giungla, non è facile, questo volevo dire. Sì, questo volevo dire, vabbè, è un'esperienza diversa, sicuramente non erano gestiti da istituzioni. Grazie Aurora anche per questa testimonianza. Anche il racket si insinua persino in cose come questa. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi c'è il nostro Leonardo Manera che è qui con una faccia da Natale. L'ho vista arrivare, zompettante, quindi me la immagino. Buongiorno. La faccia. Sei allegrone oggi? Sono allegro, è Milan che è polemico. Questo è uno stato... endemico di che parliamo. Andiamo al traffico. I funamboli. Allora, i vincitori di ieri dei biglietti per Platone. Ieri si giocava sul titolo "Gli uomini hanno il raffreddore più delle donne". Effettivamente mio figlio stamattina si è svegliato con un gran raffreddore, mia figlia no. Beh, il testosterone, quanti anni ha tuo figlio? Una riprova di quello che stai dicendo, scientifica, ma è ineluttabile. Dopo questo ne abbiamo la certezza. Da particolare all'universale. Nove anni. Massimo da Cantù, allarme raffreddore, estinzione di massa degli uomini. E Angelo da Milano, femministe contro il raffreddore. Grave discriminazione. Diventerà il nostro vessillo, il vessillo degli uomini, il raffreddore. Sì. Sono i due titoli scelti? Sì, sono i nostri, sono i vincitori. Io ce ne avevo almeno altri. Sì, tu ne hai scelto uno di Glasgow una volta, molto bello. Diamo due biglietti a uno che ci ascolta da Glasgow e domenica. Sempre perché vuoi fare economia col braccetto corto. Tu potevi pagare il biglietto da Glasgow a Milano e per fatto. Perché domenica, Leonardo, che cosa c'è? Al Teatro Manzoni di Milano torna Platone, la caverna di formazione, con tanti comici, una band, critico d'arte, Carlo Vanoni, Alessandro Milani, io e Giuseppe Cruciani questa volta. Giuseppe Cruciani. Allora, il titolo su cui dovete esercitarvi oggi se volete vincere altri 4 biglietti, vi diamo a due vincitori, a ognuno 2 biglietti, è questo, allora, della chiusura o dell'apertura delle domeniche dei centri commerciali. Dai, anche il Papa l'ha detto, così sbizzarritevi. Al 349-238-6666 mandate il vostro titolo su questa notizia. Centri commerciali aperti o chiusi la domenica, scriveteci anche il vostro nome e la città. Questa volta scelgo io. No, ma smetti, la città da cui ci mandate questo titolo. Nome e città, forza. Se no gli viene di nuovo il coccolone. Sì. Ma poi a parte città. La domenica, e anche ieri sera sono andato al centro commerciale perché mio figlio era a giocare a pallone. Allora, mentre nel aspettavo, centro commerciale tu trascorri il tempo, c'è un campo da calcio nel centro commerciale, c'è un luogo di aggregazione nel centro commerciale. Giusto, due ore, bravo. Che lui finisse. Allora sono andato di sera, non ci sono mai andato di sera, ormai i centri commerciali sono aperti fino alle 10, alle 11. E anche quella è una cosa, no, di tutte queste persone che stanno lì a lavorare fino alle 10. Allora chiudiamo un po' prima e teniamo aperto la domenica, chiudiamo alle 6 e mezza, cioè alle 5. Va bene, alle 4. Hai innescato un'altra polemica. Questi perché aprire? Che devono lavorare fino alle 10 e a volte fino alle 11 di sera. Poi sono io il polemico. Tra l'altro c'è una polemica sterile. Ma la tengo per dopo, sempre sul traffico, la tengo per dopo. E poi tra l'altro ieri non abbiamo sottolineato la polemica sterile di Pippo Civati, che aveva detto polemica sterile, eravamo con... adesso la cerco, dopo ve la dico. Sì, dopo ce la dici. Però io oggi vorrei parlare di una notizia che c'era ieri su Repubblica. Mm-hmm. In Italia sono spariti 200.000 italiani. Come sono spariti? No, per il crollo delle nascite. Persa una città come Padova, non nel senso che Padova non c'è più, Padova è ancora lì, credo. Ma 200.000 italiani non ci sono più, perché gli italiani stanno smettendo di fare figli. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Io invece credo che sia importante fare figli, almeno provarci è importante, e può anche dare soddisfazione talvolta. Il durante. Ma oggi voglio dire a un ipotetico bambino che dovesse nascere nel 2018 cosa potrebbe avere dai genitori, nonostante il periodo storico non sia dei più facili. Ipotetico figlio del 2018, avrai l'amore dei genitori sempre, anche quando tu piangi perché ti è caduto un biscotto per strada, per terra, la mamma e il papà ti dicono di non mangiarlo perché appunto è caduto per terra, tu gli spieghi che è meglio non mangiarlo perché potrebbe provocargli un'infezione intestinale, allora il figlio ti guarda e dice: lo voglio mangiare. Tu gli spieghi che per terra potrebbe essersi contaminato con virus e batteri di ogni tipo, gli fai una piccola lezione di microbiologia, allora tuo figlio ti guarda e dice: lo voglio mangiare. Tu lo terrorizzi dicendo che spesso quando dei bambini mangiano biscotti caduti per terra, subito dopo muoiono per un'epatite fulminante, allora lui ti guarda finalmente convinto e dice: lo voglio mangiare. Alla fine, per evitargli problemi, gli rubi il biscotto di mano e lo mangi tu. Lui piange, ti odia, tu hai una gastroenterite violenta, a volte il colera. Figlio del 2018. Che ottimismo. No, ti prego, vai avanti, perché è l'inizio questo. Figlio del 2018, avrai la tachipirina per tutte quelle volte che ti verrà la febbre, che di solito viene al bambino il venerdì sera, quando il pediatra non c'è più. Bisogna andare al pronto soccorso. Di solito, quando la mamma partorisce ed esce dall'ospedale, ai genitori viene dato un foglio di istruzione in cui c'è scritto: ricorda che a tuo figlio la febbre verrà sempre di venerdì sera, quando il pediatra non c'è, fino a lunedì. Allora gli si dà la tachipirina, perché ai bambini l'antibiotico si dà solo se la febbre dura almeno da 3 giorni e supera i 38,5. E al piccolo figlio la febbre viene sempre a 38,4. Quindi si misura la febbre ogni quarto d'ora per controllare che non sfori i 38,5. Poi il bambino prende il termometro da sotto l'ascella e dice: lo voglio mangiare. Figlio del 2018, avrai un televisore, un tablet e molti supporti tecnologici per guardare i cartoni animati. L'inizio è quello di Peppa Pig, puntuali tutte le sere con la stessa storia, prima in italiano, poi in inglese, perché ormai i bambini fin da piccoli devono sapere le lingue e le imparano da Peppa Pig. Così poi quando il bambino parla inglese dice: how do you... grunisce. E quando il bambino guarda Peppa Pig, tutta la famiglia guarda Peppa Pig. Così il papà non sa più niente di quello che succede nel mondo, ma sa tutto della vita di Susie Pecora, l'amica del cuore di Peppa Pig. Poi crescerai bambino e avrai una bicicletta, il triciclo con la ruota davanti, la ruota dietro, due ruotine piccole per non cadere e un casco per proteggere la testa, un giubbotto di salvataggio, dei razzi di segnalazione nel caso che pedalando ti fossi allontanato un po' troppo dai genitori. In tasca, al posto delle caramelle, l'SOS salva la vita Beghelli, che in caso di necessità fa partire direttamente la chiamata alle teste di cuoio, così il bambino di sicuro non si fa male, ma a 5 anni chiama lo psicologo. Poi crescerai sempre di più, diventerai adolescente, uscirai con gli amici e andrai per la tua strada litigando coi genitori, che giudicherai degli stronzi bastardi, mentre mamma e papà finalmente ti guarderanno dal balcone mentre ti allontani e penseranno: adesso possiamo fare l'amore. I razzi di segnalazione effettivamente non sono male per i bambini. Questi bambini bardatissimi ormai vanno in giro. Leo, allora, com'è che dice il bimbo quando gli cade il biscotto? Lo voglio mangiare. Va bene, allora ce lo mandate questo bel titolo al 349-238-6666, un titolo sulla apertura o la chiusura dei centri commerciali la domenica a Natale, così potreste vincere due biglietti, o meglio quattro, non so perché ho detto due di voi vinceranno. Due coppie. C'è il braccetto corto. Vincerete due biglietti a testa per venire a vedere Platone domenica. Con gli editoriali di Alessandro Milan domenica. Attenzione! Attenzione! Due editoriali di Alessandro Milan. Editoriali addirittura. Mi è venuta già l'indro Montanellite. Ma scusa, ma quindi che facciamo? Una diretta per cui vedo tutto o mi tocca tornare a Milano? No, ecco, c'è questa. Guarda, ha introdotto un bel discorso. Ci sono molte che dicono: ma non si può vedere in streaming? Oh, ma ragazzi, il teatro si viene a teatro, cioè. come ha detto l'ascoltatore all'inizio della puntata, come suggerisce a me di tornare a teatro, poi tocca venire. No, voglio dire, la radio c'è il podcast, c'è Facebook online, ma se devi andare a teatro, diciamo prendi anche che la tua carrozza, il tuo calesse. Però per gli amici di Catania e Canicattì, che fanno? Gli paghi il biglietto? Amici, la vita per è gli dura. Amici che invece vogliono conoscere Veronica, potranno venire a gennaio. A gennaio ci sarà Veronica Gentili sul palco, esatto, on stage. Ma non, ma non online, così lì dal on vivo. Stage, questa on stage, questa è la differenza, te l'ha detto. On stage, not online. Beh, insomma, gli amici di Catania, l'Italia è lunga, fatevene una ragione. Dai, andiamo al giornale mia, radio. Come sei proprio. E poi la seconda ora dei funamboli. Dalle, lo voglio mangiare. I funamboli. Amico italiano, hai lamentele inutili? Problemi che non troveranno mai una soluzione? Fastidi sociali di piccola entità che producono comunque orticaria ed effetti collaterali sulla tua pelle? Allora chiamaci ed esponi la tua polemica sterile all'800 24 00 24. Noi siamo qui e ti ascoltiamo sterilmente. Eccoci qui alle 10:08 minuti, perché vi ricordate che potete fare una polemica inutile chiamandoci all'800 24 0024, noi l'ascolteremo. Sterile, non inutile. Ah, scusa, sterile. Scusa. Lancia delle rubriche di cui lui stesso non è al corrente. Sì. Siamo proprio ormai polemica finita. Polemica sterile. Io ne ho una però, mamma mia, me la sono. Allora, sempre riguarda il traffico. Nelle ore di punta, soprattutto, quando tu sei al semaforo, rosso, stai per partire, e quelli che vengono in direzione perpendicolare sempre al semaforo impegnano l'incrocio, perché loro vedono che sta arrivando arancione ma dicono non passo e rimangono in mezzo all'incrocio, e tu verde e c'hai davanti una macchina e lo guardi. Ecco, io sono quei rari casi, non lo farò mai perché se scendo per fare a botte vengo picchiato di sicuro, ma sono prendi proprio quelle situazioni in cui utilizzerei la violenza fisica, cioè scenderei a prendere a schiaffi una persona che impegna l'incrocio. Ecco, la mia polemica sterile è questa. Sai che c'è un mio amico che teneva una mazza da baseball in macchina. Ecco, vedi, per esempio, io lo incrocio sicuro. Sì, è chiaro che nel momento in cui scendi tu inizi la polemica, non hai fatto sicuro in tempo a cominciare, la mazza è estratta. Esatto. È chiaro. Comunque, Civati ha fatto questo tweet 2 giorni fa. Approvata la legge sui vitalizi alla Camera. Il PD si è diviso al Senato votando contro la calendarizzazione del DDL proposta al Movimento 5 Stelle. Ora un Richetti disperato scarica la colpa su Grasso, ma il PD non ha presentato una proposta all'ufficio di presidenza. Una polemica sterile. Chiudeva così. Secondo me l'obiettivo era soltanto quello di farsi citare qui. Ma so, Civati, se vuol venire qui solo per una polemica sterile, chiaro, non ci attacchi Pippo Civati, non ci attacchi Pipponi sul programma politico. Leonardo, intervieni sì. Leonardo, togli Civati. No, Civati è territorio tuo, Civati. No, intervieni a staccare il microfono a Milano. Civati, no, ci penso io, sì. Allora. Ma tu lo sai, Veronica, che tra poco inizia la par condicio, per cui i conduttori sono, ai conduttori è vietato in maniera tassativa esprimere qualsiasi giudizio politico. Tu come farai? Credo che mi imbavaglierò. Ecco, potrebbe essere condicio l'unica editorium, come diceva Scalfaro. Condicio editorium. Pippo Civati, e poi non capite quello che dico. Va bene, c'è Michele dalla provincia di Bari. Buongiorno Michele. Buongiorno Veronica, buongiorno Milan. Mi manchi la mattina, mi mancate la mattina. È mattina adesso. Michele, sì, è mattina. Sì, ma quello delle 6:30, va bene. Cioè, solo una premessa. È già partito con una polemica sterile. Una polemica sterile, Michele. No, prego, dai. No, vabbè, solo una premessa. Sarei venuto al Mangione a vedere Platone, perché ci ho lavorato tanti anni in Piazza Cavour. Che bello. A 50 metri la Piazza Cavour. Sì, lo so, Piazza. Poi ho sentito che c'è Cruciani, allora ho rinunciato. Dunque, ma noi lo diciamo per invogliare le persone, scusa, a venire. Michele, vieni. Michele, vieni a gennaio, dice, quando ci sono io. Ma no, senz'altro. Ecco, a gennaio ti aspettiamo. Sì, tu mi dici il titolo che mandi e io baro e faccio sì che tu vinca il biglietto, va bene? Grazie. Figurati, caro. Allora, niente, è solo un'informazione, soprattutto per chi ci ascolta. Allora, io ho 75 anni, c'ho un figlio del 90, che prima laurea Forlì, la triennale 110, Erasmus a Groningen, primo posto, 4 anni di magistratura. Capito? seconda laurea, 110 e lode. Bravo. Domande per il dottorato, Firenze, Modena, Ferrara e Forlì. Nessuna risposta. Tolone. Tolone, Francia. Il ragazzo ha preso servizio il 1° ottobre. Non sapevo, l'università di Tolone paga, oltre allo stipendio, gli occhiali, il dentista, l'abbonamento ferroviario, cose, guarda, da non credere, io non le sapevo. Che Michele dice, ma perché deve tornare in Italia mio figlio? Ma stia... No, glielo sto dicendo da 15 anni di non tornare più, lo vado io a trovare. Ma certo. Se ci sono le possibilità, è una storia infinita, guarda. Dunque, da Firenze poi ha avuto... cioè, perché ha telefonato, ma uno da una segreteria può dire che si è classificato 63esimo? Può dire uno da un telefono di una segreteria dell'università, conosce nessuno? Certo. No, ormai dice sfacciato, conosce, in Italia ha detto così, ho capito, 63, ma conosce nessuno. Non si fa nemmeno finta. Ma stia nel mondo, nell'Europa, nel mondo globalizzato, trovi la sua strada, caro Michele, suo figlio. Lo raggiunga lei nel in mondo, giro, Michele. Viva così. Però si capisce che possa essere fastidioso, perché caspita, certo, uno che ha tutti questi titoli in Italia non viene considerato minimamente. Ma certo che è fastidioso, soprattutto se si sente rispondere, sì, ma conosce qualcuno, voglio dire, Michele, un abbraccio, ti aspettiamo domenica, Platone, io confido ancora. Ci vediamo al Manzoni a gennaio. Claudio dalla provincia di Roma, guarda, cioè, è incredibile, si porta il pubblico anche. Claudio, Roma. Buongiorno a voi, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Sì. Non so se riuscirò a fare una polemica sterile, ma volevo tornare a questo punto. Sì, noi siamo fiduciosi. Anch'io. Volevo tornare per un istante sul caso dei docenti e l'algoritmo del Ministero della Pubblica Istruzione. La cosa che, secondo me, è drammatica di questa vicenda è che occorre sempre fare ricorso all'autorità giudiziaria. A fronte di oramai numerosi casi in cui è palese che questo algoritmo è sbagliato, il Ministero non fa nulla. Non solo, a questo punto ignora, perché potrebbe anche dire, probabilmente stiamo cercando di far qualcosa, ignora due principi fondamentali che sono quelli dell'imparzialità e del buon andamento. E qui Claudio dice, se uno si deve pagare, se uno ha i soldi per pagarsi l'avvocato, esatto, si paga l'avvocato, certo. E se no, altrimenti è costretto. Cioè di peggio, perché poi a questo punto, nel momento in cui si fa ricorso, il tempo che viene discusso, il tempo che si va a sentenza, oramai l'anno è quasi finito e tutti i giochi tornano come prima, come nel gioco dell'oca. Va bene, più ancora, Claudio, c'era un'altra cosa che però volevo aggiungere, che non è emersa in quell'intervento. Quest'anno c'è stato uno scandalo ulteriore a fronte del contratto firmato dalle organizzazioni sindacali. I posti a questo punto di sostegno, poiché in Italia mancano numerosi insegnanti di sostegno, sono stati attribuiti non a quei docenti di ruolo che quindi avrebbero maggior titolo, come già numerose pronunce giurisprudenziali hanno evidenziato, bensì ai precari delle GAE. Qualche malevolo dice per motivi elettorali. Io non sono un malevolo, però vorrei capire. Vabbè, però anche quelli hanno fatto, anche quelli hanno vinto, no? Hanno fatto. No. Non sono docenti di ruolo, sono docenti ancora fuori ruolo, sono docenti precari. Comunque, questo non è una guerra tra poveri. No, però lei, lei che mi sembra del settore, insomma, sottolinea questi problemi. La ringraziamo, Claudio. C'è Lori che ci chiede dove fa Capodanno Manera. Voglio passarlo con lui. Pala Brescia, spettacolo al Pala Brescia di Brescia, con tanti altri comici. Con una band musicale. Chiamarezza, ma sta sempre Lori a lavorare. Manera. Allora, posso fare la mia polemica sterile, che avevo già fatto rapidamente. Sì. Allora, le scale mobili della fermata metropolitana di Piazza Udine, Sindaco Sala, c'era anche Maiorino. Spiegatemi il mistero delle scale mobili, perché le aggiustano dopo 3 giorni, sono sempre così. Non funzionano mai. E io in più devo timbrare il biglietto all'uscita della metropolitana. Io non voglio più timbrarlo fino a quando questa non mi aggiustano le metropolitane di Piazza Udine. Abbastanza localistica, non volete che io cominci a polemizzare sui rifiuti a San Lorenzo, vero? Sindaco Sala, ci pensi lei, mi metta a posto personalmente la scala mobile. Certo, perché c'è questa idea che il sindaco deve risolvere il problema sotto casa. Come mi disse una volta qui, intervistato Massimo Cacciari, in un grande momento di verità da ex sindaco di Venezia, quando disse qui a 24 mattino, fece grande scalpore sui giornali, ne parlavano tutti, dice, certo, buono il sindaco, è lì che ti chiedono di sistemare, i cittadini sono dei rompicoglioni, ti chiedono chiedono, ti chiedono, e allora tu ti rompono i coglioni, firmi l'ordinanza, dice, ma risolvetevele tra voi queste cose. Intanto io devo timbrare il biglietto anche all'uscita perché non io si fidano sono di una me. Massa di cittadini incapaci di vivere insieme. Persi questo grande momento io. Altissime, te lo faccio, vette altissime. Te lo mando su. Defini i cittadini incapaci di vivere socialmente perché siamo monadi. E allora tu, sindaco, gli firmi così non ti rompo più i coglioni, gli fai l'ordinanza. Il sindaco Cacciari. Il traffico. Cacciari sindaco era uno simbolo. Il traffico, sì. I funamboli. Avrei un'idea per il problema degli insegnanti che devono stare vicino a casa. Spostiamo la Lulli. Ragazzi, nessuno ha ancora detto che a mezz'ora di macchina da Milano, a Chiasso, ci sono i centri commerciali come nel resto d'Europa, ma chiudono alle 18.30. Siamo qui, sono le 10 e 18 minuti. C'è Alberto da Cuneo, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Eccoci. E sono anche raffreddato, quindi... Sei nuovo, sei molto... Sei un'altra testimonianza della, sì, della ecco, volevo testimoniare ricerca anch'io. Scientifica, sì. Perfetto. È un magazzino di testosterone, esatto. Quindi. Sì. Testosterone che esce proprio qui dalla cornetta, via. Eccoci, allora io vorrei fare due polemiche molto sterili, di basso livello anche. No, vediamo, non buttarti giù così, vediamo. La prima è di chi va al supermercato tipo il sabato mattina o il weekend comunque e paga con i ticket restaurant senza averli precompilati a casa, quindi creando code gigantesche. Giusto, anch'io. Impazziti, cioè basta, anch'io sono per l'efficienza, queste cose mi mandano in bestia, no, giusto, non bravo, sopportano bravo, più, non bravo. E la seconda, essendo di Cuneo e con dei problemi alle rotonde incredibili, è che la rotonda è una precedenza, non è uno stop, quindi se nel raggio di 2 chilometri non c'è nessuno, vai, è inutile fermarsi, no? Basta girare la capocciona e guardare. Devo è dire pericoloso, bisogna guardare bene a destra e a sinistra anche, perché lui Manera guida col cappello, come gli bisogna controllare bene quei famosi. Ma quanto tempo lo fanno perdere quelli che compilano il ticket restaurant al supermercato? Ma è fastidio, diciamo, è il fastidio. Sì, è proprio un fastidio, voglio dire, lo sai che hai danni in quel supermercato e compilali a casa, cosa ti costa? Esatto. Alberto, no. Io sono con te almeno certo, tu sei solidale sulla perdita di tempo. Allora, adesso però dobbiamo, a proposito di scuola, visto che abbiamo parlato di scuola in termini di algoritmi, eccetera, c'è invece un'altra tematica che ogni tanto rispunta. E bisogna essere proprio dei veri funamboli se si fanno i dirigenti, se si fa il dirigente, come in questo caso a Sedegliano, siamo in provincia di Udine, Maurizio Driol, che gestisce, o meglio dirige, quanti plessi scolastici? Professor Driol, buongiorno. Buongiorno. Allora, nel mio istituto 11, nell'istituto in reggenza, nel mio secondo istituto 6. E dal primo dicembre ne ho altri 12, perché sostituisco 12. Una collega assente. 29. Nell'istituto, sì, fa 29. 29 in un breve calcolo matematico. Sì, nell'istituto che sta in mezzo tra i due, diciamo, Sedegliano è a sud, Basiliano e Sedegliano. L'istituto in reggenza è a nord, nel mezzo c'è San Daniele del Friuli, famoso per il prosciutto, perché adesso ho la continuità territoriale. Lei è un professore, non c'entra, ma la rubrica Verò che te serve, insomma, San Daniele, ci siamo quasi. È prosciutto San Daniele. Non mi sono lanciata in spaccata, no, perché il nostro funambolo, quindi no, non c'entra voluto, niente però, con il prosciutto. Però si sa mai. Ma mi scusi, fisicamente come faccio? Le sue giornate hanno più di 24 ore, suppongo. No, insomma, mi avvio alla sessantina, per cui alle 8 di sera sono bello scannato e cerco di organizzarmi. Per esempio, oggi ora sono nell'istituto, fisicamente nell'istituto di Sedeliano. Nel pomeriggio avrò un collegio docenti, c'è cioè una riunione con gli insegnanti nell'istituto di San Daniele. Ieri mattina a Sedeliano, pomeriggio a Maiano, se che cerco di dividermi. E quindi lei passa più tempo in macchina di un camionista, praticamente. Il suo vero lavoro è stare in macchina. Insomma, no, noi la prendiamo sul ridere, la prendiamo sul ridere, professore. Ma qual è il problema a livello scolastico che porta lei e come altri dirigenti come lei ad avere così tanti plessi? Qual è il problema è che quando il ministro Berlinguer ha creato l'autonomia scolastica nel 99 non aveva previsto la reggenza, la cosiddetta reggenza, che significa avere un altro istituto, dirigere un altro istituto. Successivamente è stata ripristinata, per cui è stata abolita la figura del preside incaricato, chiamiamolo pure preside supplente, ecco, preside incaricato, e questo istituto della reggenza, che doveva essere eccezionale, è diventato nel corso degli anni, da una decina d'anni, è diventato strutturale. Per cui adesso, almeno in Friuli, è una cosa abbastanza normale che i presidi abbiano un secondo istituto, debbano dividersi. Scopo è risparmiare, fondamentalmente, cioè l'idea di tenere un preside che abbia appunto una reggenza di 29 plessi scolastici può avere solo questo come obiettivo, perché sennò è un'illogicità. Allora il terzo, la mia seconda reggenza, cioè il terzo istituto che devo dirigere, dipende dall'assenza della collega, un'assenza che sarà temporanea. Invece la reggenza, dicevo, è un problema strutturale e bisognerebbe chiedere al Ministero perché in assenza di presidi, perché non abbiano indetto regolarmente i concorsi. Certo che il dubbio viene, perché io come preside reggente di un secondo istituto costo pochissimo, si parla di 400 euro netti al mese, cioè lordi siamo meno di 10.000 euro all'anno. Senta, ma lei è veramente preside o è Tremonti sotto mentite spoglie? Ha un modo di parlare che ricorda tantissimo Tremonti. No, è il nostro Leonardo Manera, no? No, guardi, non mi... Accidenti, ho detto anche guardi. Guardi, è vero, adesso era lui. No, ma siccome è responsabile, anche abbastanza responsabile, lo ritengo abbastanza responsabile dei tagli che sono stati fatti sulla scuola all'epoca, è meglio che non mi addentri, altrimenti appunto io mi sono lasciato un pochino prendere dall'atmosfera gioiosa della trasmissione. Potrei avere potrebbe un essere più dura la parola Tremonti, l'ha scatenata, un vaso di bile. Sì. No, senta, preside, ma la buona scuola com'è intervenuta invece in tutta questa questione? Perché era un'occasione la buona scuola secondo me è una buona legge che non è stata capita ed è stata versata, sinceramente non so perché. Perché un solo dato: nel mio istituto qui a Basiliano e Sedeliano, la buona scuola mi ha dato 8 insegnanti più. In pratica gli insegnanti che mi aveva tolto abbiamo nominato prima, no? Ventriloquo. Vabbè, ecco, sicché non capisco tutta questa versione, visto che ha dato più risorse, eccetera. Non capisco però perché il Ministero, oltre a pensare a queste riforme, eccetera, non pensi anche a delle piccole leggi di civiltà. Io le ho chiamate perché tutto è nato da un'intervista al Messaggero Veneto, ha parlato di legge di civiltà, cioè mancano presidi, non si fanno concorsi, ripristina la figura del preside incaricato, insomma, incarica un insegnante, sì, perché ci sono tanti insegnanti abituati a fare i vicepresidenti. Cioè, dice un po' di flessibilità, un po' di... Esatto, un po' di flessibilità, parlo di legge di civiltà per rispetto dei ragazzi, degli insegnanti, delle amministrazioni comunali, che insomma hanno il diritto di avere una figura di riferimento sette giorni alla settimana. Approfitto per dire un'altra piccola legge di civiltà che queste riforme magniloquenti non risolvono è il problema del cambio dei supplenti in corso d'anno. Approfitto veramente per dirlo, perché è una cosa che mi fa impazzire, che dura ormai da 17 anni ad inizio anno noi presidi nominiamo i supplenti sui posti vacanti. Però attenzione, le nomine vengono fatte fino all'avente diritto. Perché fino all'avente diritto? Perché fanno riferimento questi insegnanti vengono pescati da una graduatoria che è in scadenza. La graduatoria nuova, quando esce, se esce in dicembre, significa che devi utilizzare la graduatoria nuova. Sì. Per cui va a finire. Sto perdendo un po' tra mal di testa, però ho capito che c'è una problematica sulla questione delle graduatorie. Uno dei tanti problemi dei dirigenti scolastici che devono perdere la faccia con i genitori con cambiando il supplente inizialmente nominato magari il mese di gennaio. No, ma lei ha già tante altre preoccupazioni da affrontare. Noi la ringraziamo. Maurizio Driol, la scuola, grazie, insomma, Sedegliano. No, anche perché non lo possiamo tenere qui, considerate la quantità La scuola ha sempre tanti problemi. Faccio bene io a non mandare mio figlio a scuola, a tenerlo a casa. Sì, sì. Questa è l'ultima novità, non sapevamo. Lo educhi tu? Sì, certo. Che bello, parto in casa, bello. Sì, come ci sono quelli che fanno la scuola a casa, sono molto chic, tra l'altro. Ma non si va in galera? No, ci sono l'homeschooling, ne abbiamo parlato. No, non si va in galera perché segui tutte, fai una richiesta al ministero e insomma fai questa procedura, però il mio parere è ce lo dire, dai. No, ma nel senso mi sembra come, non so, ma sì, ma allora andiamo a ritirarci a vivere in una comune. Esatto. Sì. Beh, l'isolamento è il modo migliore per vivere comunque. Ma no, non è che sono isolati. Bisogna isolarsi dalla società. Non ti piacciono queste scelte un po' fricchettone, un po' ecco, così? Ecco, brava, no. Un po' Santino dalla provincia. No, no. Santino! No. Santino dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno, volevo fare solo la mia polemica, piccola polemica. Certo, siamo qui apposta. Contro quei pensionati. No, non così però, pensionati. No, no, no, contro i pensionati. Sì, va bene. Che sono in coda al mattino alle 8, 8 e mezza in posta, che io dico, ma siete a casa tutto il giorno, ma perché ma sono svegli dalle 4 e mezza, poverino, hanno un po' di insonnia magari. No? Ho capito, però uno che deve andare a ritirare una raccomandata, un avviso, deve pagare le mezz'ore. Pensa alla resistenza al freddo che hanno. Sì, va bene. Però io dico, ma siete a casa tutto il giorno, ma perché dovete andare proprio alle 8? Quando devo andare le persone che poi devono andare a lavorare e devono pagare le mezz'ore, ma vai a mezzogiorno, all'una, giusto, è una polemica sterile che ci sta, che io condivido, va bene, grazie Santino, Santino, io ho una polemica sterile, ma quelli che ti spoilerano quello che accadrà nella serie televisiva che stai guardando, terribile, sui social. No, terribile. parliamone di questa cosa. Terribile. Che devono scrivere della terza puntata di Gomorra, che cosa sta succedendo quando terribile. Tu stai indietro di due e l'hai registrata. È l'evoluzione di quelli. Motivo? A questo proposito, io invece sono in pari. Volevo dirti che nella settima puntata, Ciro. Ecco, mentre con gli altri io non ho difese, con te io le difese le ho. Sai chi sono questi? Sono l'evoluzione di quelli che prima raccontavano il finale delle barzellette. Adesso sono più evoluti. Ma ci sono anche quelli che ti raccontano. Non è che raccontano perché l'hanno già visto, perché vogliono far sapere al cinema, ti dicono adesso succede questo, allora attento, adesso ho capito, sì, qui siamo a Firenze, perché c'è il ponte di Rialto, allora, questa è Venezia, e lo so quello, anch'io, cioè, però, però non c'è bisogno che me lo dici. Perché è l'effetto pentola di fagioli di uno che commenta tutto quanto, ogni tanto lo faccio anch'io. Non ci posso credere. No, al cinema non posso ovviamente, ma a casa credere. Ogni tanto non lesino dal fare commentini utilissimi. Ho capito, adesso apre la porta e c'è l'assassino. Chiaro, no. Poi l'avremmo magari intuito tutti, ma se ci togli il gusto di sapere se è così. È sottotitolo vivente. Ogni tanto inizio con la biografia dell'attore che sto vedendo dicendo, ma ti ricordi che quello ha fatto e comincia... No, non ci posso credere. Sì, non sì, ci sì. posso credere. Andiamo c'è gente, a sentire c'è gente la che il sistema nervoso se l'ha usurato. Posso me, capire. Mai al cinema con Veronica Gentili. I funamboli. Discussione sterile, i funamboli. Volevo esporre la mia polemica sterile sul fatto che, cioè, l'asfalto, non potete fare l'asfalto un po' più chiaro, un po' più scuro, cioè, cos'è sta cosa? L'asfalto deve essere tutto dello stesso colore. Ragazzi, fate condurre un programma intero a Leonardo Manera. Allora, quest'ultima non è una polemica, la seconda sull'asfalto è bellissima, la più sterile guarda, del questa mondo. È la più bella che ho sentito. Sì. Sul colore dell'asfalto è la migliore in assoluto. Senza quella di far condurre. Possibilità di risoluzione, sì, neanche sì. A volerla cercare nei secoli. Invece condurre un programma a Manera, perché no? No, io mi trasferisco alle Barbados. No, possiamo sempre andare alle Seychelles riportandoci Remo. Ma io ci sono già stato. Ma sai che sarebbe bello l'asfalto colorato in modi diversi? Come le città, anche a Venezia, a Burano, che ci sono le città e le case ognuna di un colore diverso per riconoscere nella nebbia. Sarebbe sentiamo, bello l'asfalto colorato. Sentiamo Adamo cosa ci dice. Provincia di Milano, Adamo. Pronto? Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la mia polemica sterile riguarda i fasciatoi per cambiare il pannolino ai bambini che non esistono nei bagni degli uomini. E quindi io una bella battaglia di genere. Giusto. Non è una polemica sterile. Giusto. Ho avuto da 3 mesi fa il mio terzo figlio, prima si parlava di, no, di che non si fanno più figli, ne ho fatti 3, e quindi sono cintura nera di pannolino. E non è male. E allora quando io non so, sono al centro commerciale, qui sempre, perché vado eccetera, magari mia moglie a fare la spesa, succede adesso ultimamente che io debba cambiare il pannolino mio figlio, certo. Andrea è l'ultimo arrivato e c'è un imbarazzo tremendo. No, ma è stupendo, perché tra l'altro tu Adamo fai parte anche in questo momento, non lo sai, nella categoria dei defurbizzati, perché ammettilo, così entri nei bagni delle donne con questa scusa e quindi ti vuoi anche defurbizzare. Sabato scorso ero in un supermercato, c'erano 2x3, sì, vicino a casa mia, a Cusano Milanino, e sì, ho cambiato mio figlio nel bagno delle donne che entravano, uscivano. Però d'altronde io come no, ma ha ragione, Adamo, scriviamo alla Boldrini e vediamo che faccia Boldrini questa una bella discriminazione, battaglia una discriminazione. Contro le discriminazioni per i papà cambiatori di pannolini che devono entrare nei bagni delle donne. Oh, guarda com'è contento e mi guarda poi con quel ciuffone, mi guarda da lì. Essendo anche visti dire, con... vediamo se si arrabbia, no? Io sono per i fasciatoi nei bagni degli uomini. E poi le donne ti guardano con sospetto quando certo, entri nel fasciatoio, cioè, sembra uno che va anche, per guardare per anche perché infastidire. Immagino te che entri a cambiare, capito? Il fasciatoio, ti devo credere anche. Comunque no? Adesso dobbiamo salutare un prete, anche ieri avevamo un prete, anche oggi un prete, insomma, sì. Don Alessandro Palermo, buongiorno, è parroco. Buongiorno a voi, grazie. Grazie a lei, parroco della chiesa di San Matteo, siamo a Marsala, dunque siamo in Sicilia. Don Alessandro, la sua iniziativa mi ha affascinato moltissimo, ci racconti di cosa si tratta? Sì, la mia iniziativa è un'iniziativa che a molti può sembrare strana, però è più che normale, perché la Chiesa prevede la benedizione degli oggetti, sì, c'è e proprio quindi? c'è proprio un libro che lo prevede, quindi io ho pensato di benedire l'oggetto più usato, quello che tutti abbiamo, quello che teniamo sempre con noi in tasca. Il cellulare. Alzate il cellulare. I cellulari, cari fedeli. I cellulari parrocchiani. Sono arriva la benedizione dello smartphone. Ma Don Alessandro, un po' come si benedice la casa, questo è il principio? Sì, ha detto bene. Oggi tutto, noi bene diciamo, la casa, l'auto, i negozi, le officine, quindi perché non benedire anche questo oggetto? Perché vedete, il fine di benedire è quello di sensibilizzare la persona. Quindi io vado a casa, te la benedico perché appunto voglio che tu appunto vivi bene la tua casa, appunto la tua vita. Sì. Io vado a darti, diciamo, il segno di Dio sull'auto affinché tu appunto ti ricordi che devi guidare bene per evitare appunto di fare un qualche incidente. E quindi anche il cellulare. Ma infatti io l'ho interpretato, interpretato così, ma magari ho sbagliato, adesso mi corregga Don Alessandro, quasi a dire a volte per un sacerdote magari questi smartphone anche con tutti i video eccetera possono essere degli strumenti del peccato, ecco. No, no, dipende dal soggetto, noi siamo sempre lì, se l'utente è positivo, diciamo, ha un'intenzione buona, il suo uso appunto sarà positivo. Se invece questo oggetto appunto ha delle intenzioni cattive, è normale che quello che li ha benediti in chiesa li ha benediti in chiesa oppure nelle case dove va dalla benedizione natalizia. Allora io li benedetti, scusa, non benediti. Scusa, non volevo correggerlo. avevamo avuto lo Zingarelli. Benedetto, una veglia in preghiera con i giovani. Io appunto ho fatto questo rito con i ragazzi, quindi con quelli che... Cioè ha fatto una veglia di preghiera, e poi alla fine ho dato una semplice benedizione, che poi è stato un dialogo, diciamo, un dire alcune frasi di incoraggiamento. Don Alessandro, ma loro sono abituati? Cioè lo sapevano questi ragazzi che lei era pronta a benedire i telefonini? Io già avevo avvisato. Diciamo, portate il telefonino. Comunità. Sì. Ma quindi sostanzialmente come volerli responsabilizzare benissimo, circa l'utilizzo di questo oggetto? Ah, ecco, quindi c'è questo. No, però non c'è uno scopo moralizzatore, credo di aver capito. Utilizzarli in maniera cristiana, ecco. Più che cristiana, in maniera umana. Umana. È diverso, cioè utilizzarli con contezza. Recuperare il nostro stile umano, quindi, nel senso riuscire a saper distinguere il rischio dall'appunto il limite che a volte i media ci possono appunto offrire, le positività che anche i media. Inutile negare, ormai questi smartphone sono dei computer, sui computer c'è di tutto, parliamoci chiaro, c'è pornografia, video, cyberbullismo, questo lei dice, cioè utilizzateli, bisogna stare attenti. Vabbè. Anche, una maggiore anche, presa di coscienza, ma io le volevo chiedere... Anche riguardo le false notizie, per esempio, riuscire anche a avere una competenza nel distinguere ciò che è vero, ciò che è falso. Mettere più attenzione. Non mi parli anche lei di fake news, perché infatti ha detto false notizie, almeno in italiano. C'è un eccesso di sovrainterpretativo, se le dico anche che il cellulare è diventata quasi un po' una nostra estensione anche a livello psichico. Ma io questa visione non la condivido, perché non penso che uno strumento possa, come si può dire, andarti a cambiare la tua mente. Sei tu semmai che scegli di cambiarti attraverso un uso non proprio educato. Ecco perché oggi credo che abbiamo bisogno di educarci. Ma è anche una benedizione, non fa male. No, non è chiaro, Don Alessandro, abbiamo capito. Don Alessandro Palermo della Chiesa San Matteo a Marsala. Andiamo a sentire il traffico, poi il nostro Leonardo Manera, benediti. Hai benedito anche il cellulare, capite? Non lo puoi fare, perché come andiamo poi avanti senza dire tutto il tempo? È perché è Battista che è entrato. Anche perché sta per arrivare Battista, no? Ero già nello stato d'animo, che ha benedito. Sempre la colpa a Battista. È così, il traffico. I funamboli. Io vorrei lanciare la polemica di quelli che vanno al cinema e poi si mettono a chiacchierare. Ragazzi, quelli quanto mi danno sui nervi, li impiccherei tutti per le palle. Bravo, io li sterminerei quelli, Linguaggio non funziona, non ci si può esprimere. No, io il primo che apre bocca al cinema anche per dire, ma io... è iniziato il film. No, in realtà non dico niente, soffro in silenzio, ma terribili, terribili. Di la verità, litighi? Mai, una volta mi sono alzato di fronte a una coppia di anziani che continuava a parlare tutto il film. Ho detto, e cosa hai detto? Alla fine del primo tempo ho detto, scusate, io non vi sopporto più, parlate durante il film, e mi sono spostato. È l'unica volta in vita mia, ma quella mi hanno tirato matto, matto. Tutto il tempo a parlare. No, scusa, vedi, questo, però, è Parma, questo, funziona... questo è Parma. E vedi, ah sì, me lo ricordo questo. Ah, adesso l'attore, ah, ma qual è l'attore che ama di qui? Ah, ma adesso, ma scusa, non ho capito. Ma qual è il papà di quello? Ma de... basta! No, Ale, non funziona così. Ale, non funziona così. Se al cinema parlano gli altri, si litiga, cosa che io faccio proprio pedisseguamente. Se parlo io, va bene. Capisci? Capito. Ogni tanto circola ancora quello. Si dice ogni tanto, no? Al cinema. Certo. Chi lo fa poi di solito comincia subito a parlare a sua volta. Ma è entrato Battista. Appena l'hai fatto, esatto, pensi, aia, adesso me la sono tirata. Ma è entrato Battista. Ringrazio anche oggi per l'ospitalità. Ho sentito anche il prete, no, che parlava di benedire. Salve. E sì, dei cosi benedetti. Abbiamo anche la sigla, no, Peter Pescapè. L'angolo del populista. Non è populista Pescapè, è che bisogna parlare dei problemi veri della gente. Si, no? È alzato in piedi, è ufficiale. Ma non è che si candida Battista. Che io vedo i problemi veri della gente, Mina. Che la gente è tutti nervosi anche al casello dell'autostrada. Quando la voce automatica della via carte dice arrivederci, la persona insulta la voce automatica perché è tutti stressati. Prima la vita, Mina, è anche gentile, tanto onesta, pare, guarda, da Roma, la vita era diversa. A 15 anni prima cominciavi a lavorare, a 20 anni ti sposavi, a 30 anni diventavi nonno e a 40 anni felicemente morivi de vecchiaia. Adesso a 15 anni ti fai il piercing, a 20 anni ti fai il tatuaggio, a 30 anni ti metti i pantaloni strappati e a 40 anni sei un perfetto deficiente. È vero o non è vero, Mina? Insomma, parli per lei. Non so. E intanto non si fa più figli perché c'è paura del futuro, perché in Italia c'è troppi extracomunitari e i negri, gli stranieri, che fa i figli e porta via il posto negli ospedali ai figli italiani che nascono. No, italiani devono tornare a fare figli, non solo extracomunitari, perciò bisogna vendere ai italiani preservativi bucati, almeno impara a fare figli, non che c'è solo figli stracomunitari. Mina, anche la chiesa non ha più i valori di una volta, vuole modernizzarsi. Ho visto un prete che ha detto che in paradiso c'è Facebook e all'inferno non c'è campo. Ma te pare anche questo il modo di dire, no? Conta solo l'internet e gli smartphone. Non solo le femmine, anche i maschi sta sempre lì a farsi autoscatto col telefonino. Hanno i tendini nel polso tutto usurati. Se proprio devi usurarti i tendini al polso, fallo col calendario del meccanico. Fallo col calendario al meccanico e vado all'ortopedico davvero uomo. Non che vai all'ortopedico perché hai usato il telefonino alla PlayStation. Capisci, Mina? Stiamo diventando tutti gay, omosessuali. Io non ho niente contro i gay, ma se Dio voleva che c'erano i gay, la stella cometa non la faceva vedere ai magi, la faceva vedere ai village people, capisci, Mina? I re magi erano veri uomini, re magi, hanno visto la stella, sono montati sul cammello e hanno portato subito i regali. Se i re magi erano gay, a quest'ora stavano ancora scegliendo la carta per i pacchettini, Mina! E i pochi veri uomini rimasti pensano solo a tradire la moglie. Io mia moglie l'ho tradita solo con prostitute o travestiti, ma travestiti bene però. Sì. E non con donne che ti devi offrire la cena che ti coinvolgi sentimentalmente. Io tutti i sabato pomeriggio ho una sua moralità. È la mia morale. No, perché io sono un morale. Inutile che fai l'ironia, Mina. Sai morale tu. No, che io tutti i sabati pomeriggio tiro giù la tapparella e vado a letto con mia moglie, anche se ormai fare l'amore con la moglie o col marito dopo tanti anni di matrimonio è una cosa disgustosa, che fa impressione, capisci, Mina? È un atto di coraggio per far estinguere la nostra società, per far finire l'Occidente. Non servono gli integralisti arabi, ci estingueremo da soli quando saremo tutti gay, quando i spermatozoi invece di fecondare l'utero andranno a pettinarci la coda. Almeno io la penso così. Parola è Battista da Cavaillon Veronese. L'ultima metafora l'ho capito. Era Manera, ascolta, guarda che Cavaillon, lei in provincia di Verona, ma i gamia l'accento che te fetti, è il tuo, le Trevisan. Qui anche questa è una polemica sterilissima, è sterilissima. Allora, signori, Cara Veronica, stavo dicendo è venerdì. Non so, c'era questo clima da venerdì. Invece... Ti sembrava, invece no, col cavolo. Oh, che bello, ci sono degli studenti. Peccato, non nell'altro studio non riusciamo a fargli un'interrogazione. Placcali, placcali. Vedi se si sono già giocati il giorno che erano impreparati. No, li accolgo sempre così. Tra l'altro, in genere hanno 8 anni, 9 anni, 10 anni. Vengono alcune scolaresche in gita qui a vedere la radio e li accolgo sempre così. Chi tiene alla Juve? Alzano la mano. Quella è l'uscita. E mi guardano, con degli occhi terrorizzati. Vabbè, adesso andiamo a salutarli e facciamo questo giochino. Veronica, vogliamo salutare tutti i nostri Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti in redazione, insieme a Peter Bescapè in regia e lì. E Alessandro Chiappini qui in regia. Domenica alle 20.45, se non avete proprio nient'altro da fare. No, che una bella serata. Poi stiamo lì un po' nel foyer prima. Al Teatro Manzoni di Milano. Un aperitivo. Ah, sì, Quindi le vostre fan possono conoscervi, venire lì, chiedervi il numero di telefono. Toccano, Michele da Firenze possono può toccare Manera. Tutte le donne portate possono il reggiseno da tirare, mi raccomando. C'è Cruciani, quindi voglio dire, tirate gruppi, il gruppi, tutte le donne gruppi possono venire da voi. Sì, 20.45 Teatro Manzoni di Milano. Noi vi salutiamo, ci ritroviamo domani alle 9 puntuale con i Funamboli. Fate i bravi.